In che periodo hai partecipato alla lotta partigiana? Ho partecipato alla lotta partigiana dall'aprile del 44 fino al 25 aprile, fino alla fine. Quindi hai fatto un anno praticamente Sì, intero, 14 mesi. 14 mesi. E in quale formazione E militare? nel comando di Armando, Davide, quelli lì, facevo la staffetta da Montefiorino, no, da Montefiorino, da Montespecchio, ho fatto quella zona qui della nostra montagna. Di Quindi in particolare la zona di Fanano, Fanano. Trignano, Montese, quelle. Quindi la zona di qua e di là della linea di Godine, Sì, poi del fronte, quello che poi è diventato il fronte, insomma. sì, sì. Quindi come staffetta non hai partecipato a combattimenti né No, ad no, ho azioni particolari. partecipato solo una piccola cosa da Lizzano quando abbiamo preso Gabba, che se ne andava a Gabba, allora sono andato con loro anch'io, c'erano anche delle altre staffette con me, quando c'è stata l'occupazione di Gabba, Grecchia, Gaggio, quel periodo. Ma me proprio in combattimento sono mai stato. Sì. Anche perché non era il ruolo specifico delle staffette, No, no, no, no, anzi. io l'ho fatto così perché dovevo, per un idealismo così, perché avevo degli amici che erano partigiani, il fidanzato, il fratello, il cognato, insomma, era una cosa piuttosto di famiglia, hai capito? In maniera che io poi sono andata, più che altro ho fatto qualcosa in più quando è successo giusto il combattimento di Rocchetta. Che ci fu questo ferito che si aggregò era con la formazione di mio marito in Capelbuco. Mio marito mi invitò, che allora eravamo fidanzati, e io l'ero andato a trovare proprio una bella mattina che mi disse: "Guarda, voglio di stare con te, avrei bisogno che stassi qui a fare con un po' di brodo buono per quel disgraziato e vorrei che andaste a Maserno a avvisare sua madre di quel che è successo, perché poverina lei stava in pena". E allora partì. E andai a Maserno a piedi, naturalmente senza ripassare da casa mia perché avrebbero. Sì, mi avrebbero forse contestato perché era una cosa pericolosa anche andare in giro per una ragazza, specialmente allora avevo 23-24 anni, ero giovane, hai capito? E poi erano altri tempi, non è come adesso che vanno del notte come al volo. Ma allora sì, sono andata a Maserno a avvisare la mamma, sono passata da Viditiciateco dal dottor Gherardi per farmi dare di medicamenti, mi ha chiesto come era ferito, cosa aveva, mi ha dato la puntura antitetanica da farci e poi mi ha insegnato come dovevo medicarlo. Era bravo quel dottore lì. Mi ha insegnato che meglio aveva paura di un sgraffio, avrei avuto paura, invece mi diceva: "Non aver paura, te levi le bende, più sangue perde, meglio è. Fai in modo che la ferita sanguini e poi ci spargi questa polverina. Che mi aveva dato le pastigline che le dovevo sbriciolare, che ero sulfamedico per quel che ho capito dopo, poi ci cambiavo le bende e compagnia, così è rimasto su per qualche giorno. Questo ferito era stato ferito al combattimento di Di Rocchetta, vero? Rocchette, sì. E chi era questo Leo, partigiano? Quindi era il partigiano Leo. il partigiano, il tenente Leo, Quindi era un ufficiale, sì. Sì, era bene, un... chiamavano il tenente, vero? Il tenente Leo. Comunque era un personaggio importante al Sì, abbastanza, al comando. comando di una formazione sua anche. E io cosa ho fatto? Quel che ho detto l'altro sì. E quindi, tornando a questo episodio, no? In cui tu hai poi curato questo partigiano ferito, ci hai raccontato che l'avete nascosto per un sacco di Sì. tempo. Sì, perché addirittura il fatto era poi stato così che si dice la popolazione ha aiutato tantissimo, per l'amor di Dio, non siamo qui per dire, però fra tanti c'era anche forse qualche spia, qualche fascista, non lo so, che tant'è vero che lo pedinavano, le spie erano così convinte, era così preciso che si doveva trattare di una spiata perché lo tiravamo via da questo nascondiglio. Lo portavamo a quello. Mentre nella notte che facevamo quel trasloco lì, erano già sul posto dove era stato levato. Proprio quando uno non deve morire, non muore. Perché perché a Sasti l'abbiamo portato su via, che sarà stato le 4 di notte, l'abbiamo portato giù, che era terminato il buco nella selva. La mattina all'alba hanno buttato una bomba incendiaria dentro al nascondiglio dove doveva essere stato disgraziato a dormire, quindi era proprio una cosa. E allora hanno contribuito tanti, per l'amor di Dio, i miei fratelli, mio padre, tutti si aiutavano la notte, chi stava di guardia, che non capitasse nessuno a vedere, perché si temeva, me, a dire la verità, avevo paura anche dei miei, non mi fidavo neanche di mia sorella. Non mi fidava neanche mio fratello, nessuno. Mi andiva andiva da una parte, invece andiva da l'altra. Ad esempio passavo dalla Rocca, che andavo Vidiciatico perché c'era anche un tenente dell'aviazione, mi pare, o la Marina, era vestito di bianco, in villeggiatura Vidiciatico, che mi dava dei messaggi da portare ai partigiani, così era uno infiltrato che andiva a tastare treni, poi era anche lui un informatore, hai capito? Beh, andavo a Vidiciatico, partivo in bicicletta a Rocca Corneta, c'era mia sorella, poi che adesso è morta, che abitava lì. Beh, dove vai? Oh, Dio, ma non ne posso più, vado dal dentista, che non ne posso più. E invece andavo per altre cose. Non mi confidavo con nessuno, quindi... La segretezza era assoluta. Sì, perché il pericolo era anche tanto, anche perché, ti dico, quando io sono andata a cosa... dicevo che andavo a messa, invece andavo dal dottore per quel ferito lì, poi ripassavo, che poi invece ci fu quel combattimento che io ritornai indietro e andai poi in Capelbuco dopo mezzogiorno, quando avevo detto all'Elisabetta del mulino, l'hanno detto, ma disgraziamo in due vat, chi impassa tutto, ha detto vaga a vedere che è stato il combattimento, è passato Barba per ultimo, che ha detto che si è preso davanti tutti, perché lì è successo che la formazione di Barba con il ferito, sì, era nascosta dove esattamente? Nei metati di Capelbuco, in cima Trignano. E c'è stato un attacco? C'è stato un attacco il 15 agosto. Da parte dei tedeschi? Sì. E loro mi dicevano c'è dei tedeschi feriti, su di lì c'è dei morti, e invece non era vero, perché mi hanno detto un catalogo che degli armi, di portafogli, di capelli, di cannocchiata, la massima mi dimorti neanche. Quindi tu hai visto da lontano? Sì, mentre che facevo la strada di Rocca, che andavo a Vidiciatico, di fronte c'è il monte di Trignano, vedo fumare i metati dove erano dentro loro a dormire. E loro mi impressionò, tornò in Dre, e poi volevo attraversare il fiume giù, il mulino che c'era l'Elisabetta. Camdespo, puoi tornare a casa, perché credimi che è passato Barba per ultimo, ha detto che si è preso davanti tutti e che sono andati nella selva. Allora mi andai a casa. E poi così, due pignate di ris, Grand Semper, che avevamo trovato al Mercato Nero, un quintale di quel riso della Vena Rossa, che non l'ho mai più visto, so perché non esiste più. Ho cotto sto riso, poi ce l'ho portato là in mezzo alla macchia nella selva, a loro, perché in quanta io un beso qua, ma ricordo che io un baggio in cima alla spalla, sai il baggio che cos'è? È un legno curvo che si mette sulla spalla con due ganci, una pignata a dre e una davanti, per portare due secchie ad esempio, e ce li portai fin là nella selva. Poi quando torno in dre ho preparato tre fette di pan con un po' di marmellata dentro, una sportina, e partì per la porta di dietro e andai sui monti per cercare Leo, perché quando avessi lui, e che Leo non c'era, quando l'Elisabetta mi ha detto li ha presi avanti tutti, è il ferito, ma mi ha detto che li ha presi avanti tutti, che lui era l'ultimo, voilà. Invece quando ho sentito da loro che il ferito non era stato salvato, mi sono andato a vedere lassù, perché mi diceva se dovessero venire i tedeschi qui, io guarda, vado giù di lì, e vado giù per quella calanga e mi nascondo sotto quella, era un castello che figo una cosa. Allora me diva Leo lassù, per me mi ha cavato a vedere, poveri, chissà in che condizione è da stamattina, la paura, senza mangiare, senza bere, ferito. Ma dove era ferito? A una gamba, un po' un paccio. Era ferito in modo serio? Serio, sì, perché era stata una pallottola di sfregio, però una pallottola esplosiva, le aveva maciulato, non un foro. Proprio maciulato il muscolo, aveva una ferita orrenda. E dopo, difatti, si è fatto fare una plastica a Firenze, quando dopo la cosa. Ma ti dico, dopo andai su nei monti a cercarlo, e chiamavo Rin in modo che se lui mi sentiva la voce mi avrebbe risposto. Non chiamavo Leo per paura che mi sentissero che chiamavo un uomo, e chiamavo la Rina Ed Castelli per far sentire che c'era qualcuno vivo su di lì che mi potesse rispondere. E invece sentivo tic tic e cancre tic tic e allora ancora in despetto. E poi quando ho visto che nel metato non c'era più, perché come ti dico, con quel cancro di quella coperta di lana, mi ha fatto una paura che mai, lui è lì cotto sotto al corpo perché è tutto bruciato. Perché tu quando sei arrivata su cosa hai trovato, cosa hai visto quando sei arrivata in metato? Come sono arrivata in metato ho visto uno strage di zaini rovesciati, munizioni, moschetti, canocchiali, tutto. Uno spargimento, disastro. I partigiani erano scappati. Tutti, la pentola con senza dentro. Non avevano tempo di prendere niente, neanche le armi. Niente, una pentola di latte ancora lì che quasi fumava e le gavette con cucchiaio infilato e la zuppa fatta, non aveva niente a mangiare. E poi ho tanto girato e guardato, dicono allora Leo l'hanno salvato. Si vede che qualcuno l'ha salvato, che l'hanno portato da un'altra parte, perché Leo non c'era né vivo né morto, mi dai giù per Cacalangia che ti poco mi ammazzaggio da lei. Niente. E allora sono tornato indietro, ho raccolto un po' su tutto quello che ho visto in giro, dentro dei zaini, quello che c'era, l'ho nascosto in un fossato lì, ci ho messo in cima dei sterpi, delle foglie. E hai nascosto le armi e le munizioni. Sì. E poi nel frattempo ho sentito mia suocera dalla palazza che mi chiamava, vieni che l'hanno trovato, sono andato giù ed era nel metato del prete. Mi hanno fatto andare giù, che l'ho visto poi laggiù, poverino, messo in una qualche maniera, ma c'era poi già stato nel frattempo il prete che ci aveva portato il caffè, il cognac, l'aveva assistito bene, poveretto. E poi c'era la Maria che l'aveva trovato, cioè diverse cose. E poi di lì abbiamo pensato, e poi è venuta anche la sua sorella e l'Antì, la povera Antì. Che il medaglia d'oro, sì, sì, militare. Sì, sì. E poverina è stata ammazzata. Paolo. Allora abbiamo detto come facciamo, come non facciamo, andiamo. Doveva venire un rastrellamento, Trignano in seguito a questa storia, temevano o le avevano annunciato, non so, che sarebbe stato un rastrellamento. Allora che cosa abbiamo fatto? Bisogna portare via Leo di lì. Il prete temeva anche lui, perché anche altre volte il prete aveva nascosto dei partigiani. Chi era quel prete? Era Don Bazzani, figlio, fratello di Pierino Bazzani. L'aveva nascosto in sagrestia, l'aveva messo dentro le casse delle candele nascosti perché i tedeschi mi scherzavano. Mio. Sì, è stato un prete partigiano anche lui, te lo dico io, perché è stato bravissimo. E come facciamo, come non facciamo, secondo deve venire il rastrellamento, lo zio era giusto, e quel che è adesso, Sandrini, aveva i muli che faceva di Torino, allora anche lui voleva portare i muli nel territorio bolognese, perché come ti dico, bastava passare dal bolognese al modenese che ci voleva un permesso, e difatti io non potevo andare a Trignano perché ero di Rocca. Perché mi ci voleva il permesso per andare a Trignano, sì, che dai mulin era mezza c'è, mezza là. E allora lui li portava nel bolognese. Allora ci abbiamo chiesto se ci prestava un mulo. Ah, io il mulo ve lo do, ma io con voi non vengo. E allora ci ha dato un mulo, ci siamo andati al metato del prete, abbiamo caricato il ferito e l'abbiamo portato al mulino, che laggiù sapevamo che c'era questo buco, ma credevamo poi che fosse. Sì, era una cosa di un mulino disfatto, dove passi i folmi, non so cosa passa. Lo portavamo, ma c'era poi anche un piccolo fienile lì di fronte che lo potevamo depositarli a dormire, poi decidere cosa si fa in notte. L'abbiamo levato di lassù, l'abbiamo portato lì. E poi l'abbiamo messo dentro questo rifugio, diciamo che l'avevano servito come rifugio per nascondere della roba. Praticamente era la cisterna dove passava l'acqua, sì. C'erano le pale, sì, che muovevano le macine, sì, sì. Quindi era proprio sotto, sotto terra, al piano della strada. Sì. L'abbiamo portato lì e poi noi siamo rimasti a dormire nel fienile, io, l'Antì e la Teresa, e poi la mattina siamo andati all'Elisabetta, che era la padrona del mulino, che naturalmente era lei che aveva nascosto la roba lì, che era il suo rifugio, e ci sono andata a dire: guardate che lì c'è un ferito, così così, se ci potete allungare un bicchiere di acqua, di latte, quello che potete, e quando posso ritorno io. E non ve ne fate, se vedete della gente girarli intorno, che non pensassero che andassero a rubare la sua roba che aveva nascosta, hai capito? E poi ecco, sono andata a casa, lì ci è rimasto 2 giorni, quel ragazzo, io ero un ragazzo, era più vecchio di me, però, secondo me, perché mi era più giovane che lui. E poi nel frattempo i miei fratelli hanno fatto il rifugio sopra casa mia, il Giambe. E poi l'abbiamo trasportato, io e mio fratello, questo partigiano, poi ne avevo un altro più vecchio, che lui non era partigiani, però non era richiamato al servizio militare, perché i partigiani più in generale erano quelli che erano richiamati al servizio militare e che disertavano, invece di andare andavano alla macchia, per non andare sotto la Repubblica, i repubblichini, le cosiddette brigate sociali. Sì. E allora l'abbiamo trasportato là, in quel buco che avevamo fatto. Nel frattempo, fra questi 4, 5 o 10 giorni, non so quanto c'è stato dentro il nostro buco, hanno fatto un altro buco. Era in un buco sottoterra? Sottoterra, sì, sotto una radice di una quercia. Era una quercia un po' in salita, un quercione così, con delle radici immense. Allora hanno scavato sotto in un campo, che poi il giorno, quando ci andava a portare da mangiare o tenerci un po' di compagnia, prendevo la zappa, facevo finta di zappettare la terra per seminarci qualcosa, perché si aveva paura della sua ombra. Non è che c'era questa comunicazione anche con gli altri, anche i vicini di casa, che diciamo era una casa isolata, non è un ghetto di casa. Poteva passare qualcheduno di sospettirsi, invece bisognava avere tutte le precauzioni. Io stavo zappettando la terra, intanto aspettavo che avesse fatto pipì per li abitare via, o ci portavo un boccone da mangiare, o ci raccontavo qualche cosa, cosa fai, per sentirsi ancora vivo, se aveva male, se doveva.